Ieri sera non ha fatto il gesto delle manette perché l'aveva già fatta a Milano, evidentemente, dato che lo studio del personaggio è molto profondo, no? E della recita, quel gesto non può ripeterlo e questo gli è mancato. Allora dopo ha dovuto esagerare in un'altra maniera, e dato che il cattivo gusto è la sua cifra di letture di educazione sportiva assoluta, che cosa ha fatto? Ha tirato in ballo l'UNICEF. C'è un messaggio magnifico scritto da Gianmarco, firmato Gianmarco, che è arrivato da poco e dice: ora si scopre da Mourinho che il Real ha perso per colpa dell'UNICEF. Beh, se così fosse, a sistemarli è stato un bambino di nome Lionel Messi. Lo trovo meraviglioso, Gianmarco, mi sono sull'attenti e mi sono cavato il cappello.